24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Corrado Passera, 59 anni, sposato, 4 figli, uno dei manager più importanti d'Italia, bocconiano con una carriera super brillante, direttore generale della Mondadori prima, del gruppo Espresso poi, dal 98 amministratore delegato delle Poste Italiane, le risana e ne espande i servizi finanziari con la creazione di Banco Posta, fino a portarla inutile nel 2002. Dal 2002 come amministratore delegato di Banca Intesa è praticamente il banchiere numero uno d'Italia. Lascia tutto per fare super ministro dello sviluppo del governo Monti. Oggi ha scelto la politica, ha scritto un libro, Io Siamo, per raccontare il suo progetto. Ma a proposito di progetti, lo scorso anno da noi aveva detto, sentiamolo. Per mobilitare un'economia grande come quella italiana bisogna mobilitare almeno 200-300 miliardi. 200-300 miliardi? Lei li è in grado di mobilitare 200-300 miliardi? Ne riparliamo a gennaio? Cioè 200-300 miliardi, a gennaio Passera mobilita 200-300 miliardi. Beh, dove li prende? Lasciamo un attimo di suspense. Ah, sempre a gennaio. Beh, appuntamento quasi a tutti a gennaio. Senta, siamo a ottobre, Minoli. Siamo a ottobre, sti 300 miliardi dove sono? Minoli, mi lasci dire che perde qualche colpo. Ci siamo già risentiti, abbiamo fatto l'elenco della spesa di questi soldi e in realtà sono più di 200-300, possono essere anche 400-500, sono tutte cose fattibili. Sì. 100 miliardi sono lo scaduto della pubblica amministrazione e non lo fanno e si potrebbe fare. 100 miliardi sono il TFR e il salario di produttività in tasca alle famiglie che ne hanno bisogno e non succede. 100 miliardi sono i fondi strutturali europei per farne infrastrutture sul serio e ricerca e innovazione. Passera, tutte cose fattibili. Dottor Passera, da gennaio i nostri ascoltatori ci chiedono, ma quando torna Passera a dire che ci ha preso in giro? Lei sta dicendo non vi ho preso in giro, vi ho detto dove sono i soldi. Non scherziamo con le cose serie, sono tutti lì, sono tutti fattibili, le famiglie e le imprese italiane li aspettano e i governi uno dopo l'altro non lo fanno. Va bene. Senta, ma intanto la sua Italia unica, che cos'è? Un partito, un movimento, che cos'è? È una bellissima cosa, è un cantiere che si è aperto e che diventerà partito mettendo insieme tanta gente entro la fine dell'anno. Ma manca un altro partito in Italia? Guardi, non si sentirà la nostalgia di tutti quelli che stanno uscendo dal mercato della politica. Senta, dottor Passera, fare politica significa avere progetti e scegliere. Questo è uno di quei momenti. Per esempio, sulla riforma del mercato del lavoro, per stare sul concreto, dell'articolo 18, Renzi ha ragione, L'articolo 18 è da superare, nel senso che il reintegro non ci deve essere, però guai a pensare che c'è l'articolo che risolve l'Italia, se non si rimette in moto l'economia c'è poco di articolo 18. Però stiamo parlando del... Parliamone. Il contratto a garanzie crescenti, che è previsto da legge, è la strada giusta? Ma guardi, siccome è un titolo senza contenuto, magari, forse sì, siccome abbiamo per esempio l'apprendistato che con poche semplificazioni potrebbe diventare il contratto di inserimento, cominciamo da lì e non continuiamo a buttare la palla avanti senza chiarire. Senta, il senatore Ichino venerdì, qui che è il relatore della legge in Parlamento, qui ha detto che si deve andare avanti per decreto, anche senza il sindacato se non ci sta. Ha ragione? Guardi, nessuno deve avere veti e quando abbiamo fatto per esempio il contratto sulla produttività abbiamo cercato di avere tutti, la CGIL non ha firmato e siamo andati avanti. Quindi lo stesso. Si può andare avanti. Però anche su senza una sindacato. Cosa di questo genere si ha il dovere di cercare il massimo consenso con imprenditori e sindacati, certo. Perché sono cose troppo importanti che toccano troppe persone. Ma se poi persone, non c'è, si deve si andare avanti. Ecco, in Europa... Con questa riforma fatta, eventualmente, avremo più ascolto? Beh, l'Europa è molto delusa del sentire parole e non vedere cose concrete. Quella del lavoro, se viene fatta, è un elemento importante. Senta, dottor Passera, io ho letto il suo libro, Io Siamo. Le piaccia o no, mi sembra che nelle sue intenzioni ci sia molto in comune con quello che dice Renzi, mi sbaglio? I titoli, la sostanza è molto diverso. Prenda una riforma a caso, prenda per esempio quella della scuola. Sì. Da una parte si parla di 150.000 assunzioni senza, in gran parte senza concorso. Noi parliamo di poter scegliere, di poter premiare i professori migliori, di far guadagnare a tutti gli italiani almeno un anno e ripensare i cicli scolastici. Quindi titoli uguali, sviluppi diversi. Sviluppi diversi, ci vuole molto più cambiamento di quello di cui si parla oggi al governo. Vabbè, è solo 6 mesi che è al governo, I governi, tempo, assolutamente, ma siccome ha tirato in aria tutte le riforme possibili, dentro non c'è abbastanza di cambiamento. Vabbè, speriamo che arrivi. Senta, ma che cosa non le piace assolutamente di Renzi? Guardi, il non rispetto per il merito e l'incapacità di mettere insieme squadre forti. Ecco, lei appunto dice che Renzi si circonda di persone che non sono all'altezza, ma mi dice chi? Guardi, uno per uno no. La sensazione faccia dei nomi, lei è uno che parla chiaro, grande manager, dica le cose. Nessuno ha dubbi su questo, non abbiamo oggi schierata una squadra adeguata. Allora, i nomi li faccio io, Padoan, voto, Boschi, Poletti, Madia, ammazza, severissimo. Senta, ma anche la giustizia è un fronte caldissimo. Alcuni magistrati però sono sulla strada di una riflessione critica. Senta la Boccassini. Ci sono dei magistrati, dei pubblici ministeri che forse hanno utilizzato il proprio lavoro per altro. È inutile negarlo. Questo c'è stato e io mi auguro che non ci sarà più. Una seria autocritica anche all'interno della magistratura, che doveva fare e non l'ha fatto dopo la morte di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Che effetto le fanno queste parole da Boccassini? Brava, coraggiosa e anche al momento giusto vengono queste dichiarazioni. Ecco, ma che cosa bisogna riformare della giustizia per attrarre investitori e rassicurarli? Tante cose, ma una fondamentale. Un'azienda deve poter incassare i suoi crediti e il tribunale deve essere il meccanismo per poterlo fare. Oggi è il meccanismo per rimandarlo di anni. Agli investitori italiani ed esteri bisogna dire: se tu hai un credito vai da un giudice e il giorno dopo incassi. Senta, le ferie dei giudici sono troppo lunghe, eh? Sono lunghe, però banalizzare anche la riforma della giustizia su questo... No, ma ho fatto una domanda. Sono troppo lunghe, sì. Sì, punto. Stiamo banalizzando in molti casi delle riforme con la superficie, l'intonaco delle riforme. Senta, dottor Passera, comunque, mentre lei va a Cernobbio tra i big dell'industria e della finanza che comandano da sempre, Renzi va sul territorio dell'economia reale, nell'economia reale. Non è quello che lei dice, predica anche lei nel suo libro? Sono entrambe economie reali. Da Ambrosetti c'era metà probabilmente degli investimenti italiani ed è altrettanto reale di andare a vedere una rubinetteria. Entrambi sono parte dell'Italia che serve per ripartire. Quindi un'ora qua, un'ora là bisogna fare. Esattamente. E questo sarebbe stato il messaggio giusto. Senta, ma lei che qualità pensa davvero di avere che non hanno né Renzi, né Berlusconi, né Monti? Probabilmente la combinazione di esperienza, amore per il paese e capacità di costruire squadre forti, ma tutte e tre queste cose insieme. E quando l'ha capito che la politica era il suo futuro? Beh, le Poste per me sono state la metafora dell'Italia che può proprio ripartire da basso e diventare uno dei migliori paesi europei. Da ministro ho toccato con mano che si può e si può fare velocemente e poi mi sono convinto dopo un anno di lavoro sul progetto che c'è nel libro Io Siamo che lei ha menzionato, perché lì c'è la dimostrazione che l'Italia può ripartire. Senta, i politici sono sempre criticati oramai dappertutto. Però le grandi istituzioni finanziarie come l'OCSE, la Comunità Europea, il Fondo Monetario, che fanno previsioni economiche da 5 anni tutte sbagliate, però sono sempre ascoltate come oracoli. Perché? Ma guardi, l'atteggiamento verso gli oracoli è sempre così, nasconde un po' di provincialismo. Dall'altra parte, che è il tema grosso che lei tira fuori delle previsioni sbagliate, è ciò che ci deve ricordare che stiamo vivendo un periodo della storia in cui le analisi e le soluzioni del passato non servono più, è tutto inedito, bisogna avere l'umiltà di pensare completamente nuovo perché con il passato non interpreti il futuro. Ma per esempio, senta cosa diceva nel 2012 la massima autorità italiana in tema economico, il governatore della Banca d'Italia, Visco. Confermo che sarà una ripresa nelle nostre valutazioni, non ho mai detto che sarà una forte ripresa, credo che sarà una ripresa tanto più forte quanto più certi risultati si avranno che condizionano la crescita e le previsioni di crescita. Ecco, ma sulla base di quale analisi che ci sarà la ripresa? Dipende veramente molto da come andranno i mercati internazionali, l'economia globale. E lei prevede che vada meglio? Io credo che quest'anno è un anno difficile, ma credo che l'anno prossimo sarà un anno di uscita. L'anno di uscita non è stato, che effetto fa? Era il 2012. Nessuno è perfetto. Certamente si basava su delle ipotesi che poi non si sono realizzate. Cioè, sempre questo discorso, il passato non serve a proiettare il futuro. È proprio così oggi. Senta, ma però la verità non ci viene detta, oppure, come mi sembra che lei stia accennando, nessuno la sa? No, io credo che non ci raccontiamo la verità. E quando dico verità, visto dalla politica, ha un nome e si chiama 10 milioni di persone che o non hanno il lavoro o non hanno un lavoro sufficiente. Questo dovrebbe essere il parametro per valutare la politica. Noi non ci parliamo con parole di verità. Senta, ma sono i 10 milioni di voti che vorrebbe lei, quelli lì? Ma sa, quei 10 milioni vuol dire metà dell'Italia con i loro familiari, che oggi è ferma e ha paura del futuro. A questi bisogna dare, e io intendo dare, sto dando, un progetto di uscita e di sviluppo per il Paese. Senta, in Europa però, dove la crisi è violentissima in tutta l'Eurozona, continua a dominare il rigore della Merkel. Bisogna reagire oppure no? Ma guardi, di solo rigore non ne usciamo. Però di modello tedesco non dimentichiamoci che è stato cioè oggi la Germania è un modello di successo mondiale dopo che 10 anni fa era il malato d'Europa. Sì, sulle spalle di tutti gli altri paesi. Beh, adesso non banalizziamola. Non è banalizzare. Hanno fatto un gran lavoro. Certo che se ci si limitasse al rigore non ne usciremmo. È il momento in cui bisogna dimostrare che bisogna aggiungere al rigore, cioè la disciplina e al non spreco, la capacità di investire e sviluppare. Però intanto la nuova squadra di Juncker mi sembra, se possibile, più filo Merkel di prima. È vero o no? È così. Ah. E allora lì sto sviluppo farà fatica. Dipenderà da noi, l'Italia è uno dei grandi paesi, può spingere nella direzione giusta. Per esempio, se si facesse quello che io propongo da tanto tempo, adesso 1.000 miliardi di investimenti in istruzione, in infrastrutture, in ricerca, finanziati con Eurobond, sarebbe la dimostrazione che l'Europa sa essere rigore, ma sa essere. Però non anche ci sono gli Eurobond per adesso. E quello che dobbiamo ottenere, il prossimo passo, ecco, l'Europa intanto, evolve. Per ottenere qualcosa, professor Guarino. Giuseppe Guarino dice che bisogna abbandonare il fiscal compact, che nessuno ha mai firmato, per tornare al trattato di Maastricht, quello originario, che prevede rigore e sviluppo insieme. Insomma, questa Europa forse va più rottamata che riformata. No, riformata, l'Europa sta facendo dei passi avanti, l'Europa ha portato a casa il principale dei risultati che si era proposto, la pace in Europa, comunque una lunga fase di sviluppo, adesso c'è da aggiungere sviluppo a rigore ragionevole. Però la pace non è frutto del fiscal compact. No, ma dell'Europa unita sì. Senta, dottor Passa, lei ha detto se la crisi finanziaria fosse stata gestita come io ho gestito Banca Intesa non ci sarebbe stata la crisi, non è un po' megalomane? No, è un fatto. Facendo molto credito e poca finanza, non lasciandosi prendere dalle bolle finanziarie, il mondo non sarebbe finito dove è finito. E qui c'è sia il ruolo della banca, sia anche il ruolo della nostra banca centrale rispetto a quelle di altre banche che hanno lasciato succedere il disastro. Senta, ma il suo antico amore, le Poste, adesso entrano in Alitalia. Ecco, secondo lei è un bene o un male? Che lo Stato mettesse un chip per favorire un progetto molto importante per il Paese era un bene. Ma che lo per facesse, Poste? Secondo me non era le Poste il veicolo più giusto. Quindi non è un bene? È un bene che lo Stato abbia trovato il modo di risolvere quel problema. Vabbè, ma in concreto sono le Poste? Vabbè, alla fine ha reso possibile un progetto per cui c'è un investitore che mette miliardi per una minoranza dell'azienda, quindi vuol dire che ne valsa la pena sia per chi ci lavora sia per l'Italia. Senta, lo scorso anno avevamo scommesso un caffè, io e lei, che Air France avrebbe comprato l'Alitalia, diceva lei, io dicevo di no. Non l'ha fatto, ho vinto il caffè, e questo me lo pagherà. A me, assolutamente, ecco, le devo un caffè. Che cosa non ha capito lei dell'Alitalia? No, che cosa non ho capito di Air France? Questione. Per la seconda volta non ha avuto il coraggio di fare una cosa giusta e il macro investimento che sta per fare Etihad dimostra che è stata un'opportunità persa per Air France. Senta, di Telecom non parlo, ma è fortuna che arrivano i francesi di Vivendi? Di per sé non è la soluzione, io ripeto quella che è la soluzione giusta, la rete così come quella del gas, come quella elettrica deve andare in cassa depositi e prestiti, ci siamo arrivati molto vicini, e di fatto continuiamo a evitare un problema che blocca l'innovazione in Italia. Senta, come ministro, Monti dice che a lei ha dato più potere di quanto ne abbia mai avuto chiunque altro, che uso ne ha fatto? Allora, responsabilità tantissima, potere pochissimo, e questo però non è solo un tema del mio fare il ministro, di cui peraltro sono orgoglioso. È un tema della politica. È un tema generale. Noi non colleghiamo responsabilità e potere. Noi non abbiamo, e le nostre proposte sono forti in questo campo, non diamo al governo la possibilità di governare. E quando una democrazia è bloccata da meccanismi di governance per cui non si riesce a decidere, è tutto rimandato, ne va di mezzo la democrazia. Quindi la democrazia deve essere governata, è quello che sta cercando di fare Renzi. Dare potere al Presidente del Consiglio. È uno dei titoli. Io, anche qui il contenuto delle nostre proposte è molto chiaro. La riforma elettorale va in questa direzione? No, la riforma elettorale purtroppo è un'altra occasione persa, perché di fatto vuole creare da una minoranza una maggioranza, è comunque una maggioranza sempre legato all'ultimo carro. Lei come la vuole? Come la vuole sta legge elettorale? Non c'è molto da inventare. Doppio turno. Al primo turno tutti si presentano e questo favorisce la partecipazione. Sì. Se nessuno raggiunge il 51, si fanno alleanze trasparenti e si compete. In questo modo avremo partecipazione e governabilità, con un premio forte e collegi uninominali che forzano la politica a portare le facce giuste. Senta, dottor Passera, un Marò è tornato per curarsi. Il ministro Giulio Terzi, che era il ministro degli esteri all'epoca, dice che siete stati lei e Monti a rimandarli in India per paura di ritorsioni economiche. Tito? Allora, quello che dice Terzi è assolutamente falso. La decisione è stata unanime, lui stesso ha votato a favore di questa decisione ed era una decisione giusta. Quando un paese dà la sua parola e lo mette per iscritto, non è che poi può rinunciare facendo perdere al proprio paese per sempre ogni credibilità. Gli americani, per esempio, al CERMIS non hanno fatto così. Gli americani non hanno riconsegnato i loro piloti e noi non avremmo dovuto riconsegnare i nostri Marò. Il primo degli errori è stato proprio di far tornare la nave in porto e di far scendere dalla nave i nostri Marò. E chi l'ha fatto, Terzi? Diciamo che esteri e difesa non hanno dato le indicazioni giuste. Senta, ma è più difficile fare il ministro o il banchiere? Ministro. Perché? Perché è talmente, oggi come dicevamo prima, complesso la creazione del consenso intorno alle decisioni che certamente è molto più difficile farlo, ma si può, le 152 Senta. Cose fatte al Ministero dimostrano che si può. Vabbè, insomma, mo anche quelle non fatte. Senta, dottor Passera, lei critica Renzi per la squadra che non ha, lei ce l'ha già in testa la sua? In parte sì. Ma dicono che Tosi per esempio è uno dei suoi, si può dire? No, uno dei miei non si può dire, ma certamente molti, molti punti in comune. Si dice anche Saviano, si può dire? Non se ne è mai parlato e non lo prevedo. Ma mi fa qualche nome allora che vorrebbe? Cioè vuole che io li rovini con tutto questo anticipo? Assolutamente no. Ma Montezemolo, per esempio, è già un po' rovinato, possiamo parlarne? Non è previsto. Eh? Non è previsto? Ma come giudica la sua cacciata da parte di Marchionne? Violenta. Violenta. Dopo un lavoro che aveva fatto della Ferrari un'azienda veramente super, vedremo se sapranno andare avanti nel lavoro fatto. Senta, ma Marchionne fa del bene o del male all'Italia? Complessivamente male. Perché? Guardi, i non risultati della Fiat Auto, gli impegni non mantenuti, la ritirata dall'Italia, tutto sempre giustificato in giro per il mondo, sputtanando il nostro paese, alla fine porta a un risultato pessimo nei confronti dell'Italia di quello che ha fatto Marchionne. Cioè, Marchionne sputtana l'Italia in giro per il mondo per coprire la sua ritirata? Per coprire ritirata, per giustificare gli impegni che non ha rispettato e i cattivi risultati di Fiat Auto. Non ci sarà più Fiat in Italia, quindi, alla fine di questo percorso. È quello che sta... Non ci sarà più Fiat Auto, in realtà. Auto, sì, certo. Senta, oggi lo scontro tra l'Unione Europea e la Russia sta per avere conseguenze molto dolorose sulla nostra economia. Bisogna rinunciare alle sanzioni? Ma diciamo che innanzitutto gli interessi economici non devono mai superare i principi. Non è che un paese può annettersi un pezzo di un altro e farla franca. Quindi bisogna discutere e trattare. Bisogna anticipare, perché questa è una crisi che si poteva anticipare. Bisogna poi affrontarla diplomaticamente. Di sole sanzioni non ne usciamo sicuramente, però il principio fondamentale deve essere tutelato. Certamente le minoranze di lingua e di etnia russa in Ucraina devono avere autonomia. O perché si creano le regioni o perché si creano uno Stato federale, devono avere soddisfazione. Ma comunque uno contro 27 vince sempre uno, cioè Putin contro l'Europa che ha 27 che si devono mettere d'accordo. L'Europa, soprattutto in campo estero, proprio non riesce a esprimere una voce, questa è una grande debolezza. Però con la Russia non si può non adoperarci per trovare una soluzione. Senta, ma rischiamo intanto di restare bui al freddo quest'inverno? No. No? Sicuro? No, e alcune scelte che sono state fatte per anche diversificare le fonti di energia vanno in questa direzione. Io non mi aspetto che ci siano problemi di questo genere. Senta, ma nel medio periodo ci sono più gli Stati Uniti o la Russia di Putin nell'orizzonte strategico dell'Europa? E anche del Mediterraneo. Entrambe, e l'Europa deve esprimere questa sua capacità di lavorare con la Russia e naturalmente insieme agli Stati Uniti. Pensi solo al trattato che si potrebbe fare di mercato unico atlantico, anche lavorare da quella parte, entrambe. Senta, dottor Passa, intanto il reddito delle famiglie però è tornato quello di 30 anni fa. È un percorso irreversibile? Assolutamente no, però bisogna intervenire con una decisione, una determinazione che proprio non si vede in nessuno dei governi che si sono succeduti negli ultimi anni e che continua a non vedersi. Senta, nel suo libro lei racconta dove sono finiti gli 800 miliardi che lo Stato spende ogni anno. La ministra Madia ha provato a aggredire da qualche parte timidamente il problema. La vogliono morta. Da dove bisogna partire? Guardi, bisogna partire dagli errori che si stanno facendo. Noi dobbiamo fermare la spesa corrente pubblica, dobbiamo fermare la crescita delle tasse e dobbiamo rimettere in moto gli investimenti. Purtroppo nei progetti di questo paese, di questo governo, come di quelli precedenti, c'è più spesa corrente, ci sono più tasse e ci sono meno investimenti. Ma da dove si taglia allora? Da dove si comincia a tagliare per far uscire quel grasso da questi 800 miliardi? Guardi, ci sono. Guardi, faccio solo degli esempi. Sì. Si continua a parlare delle partecipate pubbliche, sì. Un buco senza fine. E poi quando si arriva. Cosa vanno? Chiuse tutte? Vanno vendute e chiuse. Vendute quelle che si possono vendere e chiuse. No, guardi, nel campo soprattutto dell'energia, dei servizi, c'è la possibilità, soprattutto mettendole insieme, di fare delle ottime operazioni. Alcune vanno proprio chiuse. Cottarelli lo dice, mille sono delle scatole vuote che semplicemente danno lavoro a consiglieri di amministrazione. Va bene, mille le chiudiamo. Mille su 8.000, ne dobbiamo chiedere almeno tutte. A metà. Pensi ai costi standard della sanità, ne continuiamo a parlare e non li facciamo. Quanti soldi verrebbero fuori secondo lei? Parecchi quanti? Miliardi. Ha un'idea? Guardi, e anche a volerli rimettere poi nella sanità, se pensa che ci sono regioni che danno cattivi servizi con 2.500 euro ad abitante ed altre che danno buoni servizi con 1.500 euro ad abitante, lei pensi a quanti miliardi ci sono di mezzo? Senta, oggi per vincere bisogna avere delle idee, ma poi bisogna anche saperle comunicare. Lo scorso anno lei mi diceva: mi sto allenando. Ha imparato? Miglioro. Migliora? Ah, va bene. Senta, Renzi e Berlusconi sono dei mostri di bravura in questo campo, non c'è dubbio. Ecco, che cosa vorrebbe avere lei che loro hanno? Forse la capacità di fare battute, però senza perdere sostanza. Senta, se ho capito bene, il nuovo Berlusconi nelle sue intenzioni sarà Passera. Ho capito bene? In meglio. Quindi quel patrimonio, lei punta a quel patrimonio. C'è un grande mondo da quella parte che non ha trovato soluzione alle cose che si aspettava e alle quali si può rispondere. Ma però voti ne prende sempre Berlusconi. Certo, in mancanza di altre alternative. Senta, quelli che hanno provato fino adesso non hanno fatto una buona fine, eh? Penso a Fini, penso a insomma, tutta quella gente lì, non mi pare che sono andati lontani. Assolutamente. Va bene. Senta, ma quando pensa di scendere in campo con le sue liste? Alle prossime elezioni, come abbiamo detto. Ma è pronto se ci saranno elezioni anticipate? Saremo pronti. Senta, le faccio l'ultima domanda. Ma elezioni anticipate, a quanto le dà lei in primavera in percentuale? Alta, perché Renzi sta facendo di tutto perché questo succeda e che si vada alle elezioni prima che venga fuori il suo bluff. Senta, alta 60, 70, 80? No, diciamo 50-50. 50-50. X 24. Zero ventiquattro numero verde 349-238-6666 l'SMS. Titolo del faccia a faccia, Mario. Non passerà. Non passerà, no? Che uno lo può leggere in molti modi. Non passerà, non passa, oppure resta. E tu, Pietrangelo? Oggi è stato duretto, però. Sì, duro. Io farei così. due punti. No, due punti no. Insomma, io farei cioè, punto e virgola. Punto e virgola. Sì. I miliardi ci sono. Sono i portafogli a restare vuoti. E intanto noi salutiamo zia Elsa di Palermo che ci ha scritto un messaggio dolcissimo e la ringraziamo molto. Canzone. Cava pelata la fai tutte e che ne dammi in dei soffradeo. Ci vuole sempre una certa idea di Milano, una frenesia affamata, un'allegria che poi è tutta rifoluta tipica del nord, ma io ho scelto apposta Gorni Kramer, quel genio di Gorni Kramer, per cercare di raccontare l'Italia di oggi come l'Italia di appena ieri riusciva ad accogliere, ad ospitare il genio perfino nel varietà. Questa canzone bellissima, un'esecuzione straordinaria dove ci sono anche Raffaella Carrà e Mina, il genio perfino nel varietà, proprio quando oggi l'Italia con Roma rinuncia a Riccardo Muti. Proprio crapa. Capo pelata la fai tutte. Greta Minga sopra dei. I sono fra dei fai la frittata. Greta Minga crapa pelata. Crapa pelata la fai tutte. Ha ragione, questa cosa di Muti è pazzesca, davvero. Solo a Roma si fanno ste robe. Bravi, bravi. Bolle! Allora, Giovanni, hai sentito come bolle in pentola? Si parla di leader stamattina, insomma, avevamo Passera, chi aspira ad esserlo, molti si muovono, tutti si chiedono chi sarà il prossimo leader con una voce forte nella governance mondiale. Sì. Un americano, un tedesco, un cinese? No, viene dal Brasile. E parlerà Giovanni così. Dilma, você fixiente, não vuole combater com as suas armas, vuole combater com a nossa verdade. Nós vamos manter o Bolsa Família. Há mais de dia não comiam, jamais acabará allora, com Dilma, Bolsa Família. Tu sai che non ti combatteremo con le tue armi, noi ti combatteremo con la verità, con il rispetto e con la nostra politica. Noi manterremo la provvedimenti della Bolsa Famiglia. Questa è Marina Silva in un discorso straordinario che è diventato poi il discorso cardine della sua campagna elettorale, una donna che è candidata alla presidenza del Brasile, è favorita, ma soprattutto è destinata, se continua così, a diventare una voce importante della del mondo. Sì, assolutamente. Il sud del mondo prende parola. Foreign Policy gli ha dedicato un servizio stupendo. Io mi sono riguardato tutti i suoi discorsi e i video. Ragazzi, è un leader. Ce n'è bisogno nel mondo. Sì. Un'altra bolla. Gli zombie a volte ritornano, stanno tornando tutti. A proposito di leader. A proposito di leader, filo conduttore, questo è il grande Michael Jackson, non è che ha bisogno di presentazioni, lui non può tornare, però è sempre vivo. E torna pure Sarkozy, Pietrangelo, sta tornando Sarkozy. Quindi l'ex presidente francese vuole tornare a fare che cosa? A candidarsi alle prossime presidenziali. Perché? Perché vuole aggirare la destra di Marine Le Pen, perché i socialisti, avete visto come sono ridotti, stanno più in mutande che con i pantaloni. Tornano tutti. Io attendo la ricandidatura di Clinton, ma c'è un problemino con Hillary. Di Tony Blair, ma c'è Murdoch che è un po' arrabbiato perché gli ha soffiato l'ex moglie. Quindi, insomma, in Germania Kohl non può tornare, anche perché c'è la Merkel e ci sta benissimo. E poi vedrete al Quirinale, alla fine, io temo, forse, sembra, chissà, tornerà Romano Prodi. O no? Sempre thriller, sempre thriller. È la quota rosa di Sara Tardelli oggi, cosa ci dice? Qui vedo oggi un'aula piena di studenti di medicina. Non lasciatevi anestetizzare, non lasciatevi intorpidire di fronte al miracolo della vita. Vivete sempre con stupore il glorioso meccanismo del corpo umano. Questo deve essere il fulcro dei vostri studi e non la caccia ai voti, che non vi daranno alcuna idea di che tipo di medico potrete diventare. Signora Adams, e non aspettate di essere in corsia per acquistare la vostra umanità. Sviluppate subito la capacità di comunicare, parlate con gli estranei, con gli amici, con chi sbaglia numero, con chi vi capita. Signor Adams. E così fate con quei professori che non sono morti dal cuore in su. Condividete la compassione che hanno, fatevi contagiare. È lunedì e voglio iniziare la settimana con una bella notizia. Anzi, Mario, dico come piace a te, con una good news, che è più cool. È successo al bambino Gesù. Possibile. L'ospedale Scusa, pediatrico, dimmi. Cool, che vuol cool. dire? No, non ti preoccupare, Pietrangelo, non è niente di male. E cosa è successo al bambino Gesù? È successo che è stato abbandonato lì 18 anni fa Jamal, un bambino che era malato e aveva 6 mesi. Allora cosa è successo? L'ospedale l'ha adottato ed è cresciuto proprio tra le corsie per 18 anni. Oggi ne ha 20, si è diplomato in ragioneria e vive a Roma. Questo grazie a chi? All'impegno e all'amore di medici, infermieri e grazie a un progetto molto importante, la scuola in ospedale. Quindi vi chiedo, per questa settimana almeno, facciamo tesoro della storia di Jamal e proviamo a ricordarci che la gioia degli altri forse può contagiare anche la nostra vita. Io c'ho la... Io l'accendino, cioè. La prima fabbessa sì, donna. Sì, sicuro. Non mi dispiacerebbe. Salamini. Più che salamini, tortellini. Al plutonio radioattivo tra poco. Allora, a Modena, 6 gigantografie all'ingresso della festa dell'unità, altre 4 con i cittadini plaudenti, tutti felici alla vista del caro leader Matteo Renzi. Praticamente il povero Bersani è stato costretto ad attraversare questa scenografia. E qui si capisce qual è il meccanismo psicologico del caro leader Matteo Renzi, che incarna la doppiezza comunista ai massimi livelli, altro che Togliatti. Lui al meglio rappresenta la tradizione comunista, tant'è vero questo che... Questo è bene. Questo? È bene. E mettiti nei panni del povero Bersani, che è costretto all'autocritica, adesso deve friggere le patate con l'acqua minerale. Allora... La questione qual è? Che da un lato c'è Renzi che fa il piritollo su Twitter, dall'altro invece organizza i soviet. Il giglio è rosso e da domani sarà obbligatorio rinnovare la fedeltà a Renzi attraverso il capo caseggiato, che saranno istituiti in tutti i quartieri d'Italia. E da sé che succede? Che i gufi sono fuori legge, per cui il gallo una volta morto sarà resuscitato. Oh. Il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto, il gallo è morto. Non canterà più e cocco di e cocco da. Non canterà più e cocco di e cocco da. Caro mio. E quindi Bersani dovrà cantare. Ecco che è morto. Sei pronto per il canzoniere? Pronto. Andiamo col canzoniere prima della pubblicità. L'anno moriva assai dolcemente. Il sole di San Silvestro spandeva non so che tepor velato, mollissimo, aureo, quasi primaverile, nel cielo di Roma, e tutte le vie erano popolose come nelle domeniche di maggio. Mix 24. Cosa c'è scritto, scusi? Ma come? Non sa leggere? No, non capisco questa frase. Agite con calma. Io dice, sì, mettete sul banco $15,000 ed agite con calma. E dopo che dice? Cioè, vi tengo sotto tiro. Tiro, ma che significa apita? Agite, c'è scritto agite con calma. Mettete 15.000 dollari sul banco e agite con calma. Ah, ho capito, è una rapina. Sì, signore. Era la rapina di Woody Allen, prendi i soldi e scappa, è molto divertente. Vabbè, esuliamo un po' dalla politica, andiamo di cronaca, ci occupiamo in questo piccolo passaggio. Ci sono due rapine da ridere. A Bergamo uno si è ritrovato i ladri in casa e li ha messi in fuga agitando un mouse nel computer. E io francamente voglio conoscere questi ladri, perché devono essere molto molto intelligenti. In Kansas invece il proprietario della casa, che ha trovato il ladro appunto nell'abitazione, cosa ha fatto? Ha preso una lancia medievale e l'ha infilzata. È vivo, male, cioè è bisogna uno mouse, quindi il massimo della tecnologia col minimo della tecnologia, cioè la lancia. Come vedi, sempre quello. Sempre si quello. Sono evitate le rapine, ma è tornato a trovarci un grande amico, il professor Giorgio Simonelli. Professore, buongiorno, che piacere, ci mancava la sua analisi sulla televisione. Gli mancava? Eh? Molto, cioè, moltissimo. E allora sentitela un po'. Parole, parole, parole. Ascoltami. Parole, parole, parole. Ti prego. Parole, parole, parole. Io ti giuro. Parole, parole, parole, parole, parole. Che allora, professore? Allora abbiamo cominciato male l'anno, perché appunto chiacchiere, parole, talk, che sono uguali a quelli dell'anno prima, però si scambiano un po' i ruoli, si parla molto della crisi del talk, ma non si fa niente per smetterla con i talk. Si dice che il pubblico fugge, ma si insegue continuamente questo pubblico, e quindi siamo al punto di partenza, anzi siamo al punto della fine, perché così andrà facendo, insomma, il degrado è inevitabile. Oltretutto c'è questo spettro di un noto programma condotto da una nota e brava conduttrice che non si sa bene che fine ha fatto, e che viene sostituito da un programma che si chiama in modo molto originale Faccia a Faccia. Le dice qualcosa questo? Ah, no, avevo sentito parlare nel 1980. Ecco, c'era un programma antelucano. Allora, che sarà di noi? Che sarà dei talk? Io credo che... Ho visto che arrivano un po' dappertutto, insomma, e Faccia a Faccia. Un punto fermo, ripartire da capo e dire che va benissimo parlare in TV se ci sono due persone che parlano tra loro e magari approfondiscono qualcosa, ma se invece continuiamo a chiederci come facciamo a mettere delle persone attorno a un tavolo per parlare, le teniamo in piedi, le mettiamo sedute, ci mettiamo un comico, ci mettiamo due comici, così non andiamo da nessuna parte e il canone non c'è. E quindi il canone ha visto che si avvicina anche la privatizzazione di RaiWay, eh? Quindi insomma si muove qualcosa nella riorganizzazione dell'azienda. Si muove qualcosa nella riorganizzazione, non si muove nulla nei contenuti. Siccome io, come dicono molti, sono un uomo di prodotto, bravo, bravo professore, di organizzazione, soffro molto perché non c'è prodotto. Grazie, guarda, professore, la prossima volta. Posso intanto farti una domanda? Sì, al volo. No, cioè, se i talk sono morti o no, voglio capirlo. Sì, ha detto di sì, che sì. Sono morti. Ecco, ah. Non... Enrico da Verona, ha indovinato? Enrica, chiedo sì, scusa. Pronto. Buongiorno Enrica, mi dica rapidamente. È l'incipit del piacere di D'Annunzio. Ah, che giusto, giustissimo. Feltrinelli. Cosa fa a Verona, signora? Ho insegnato lettere per una vita e adesso continuo a insegnare lettere ai miei nipoti. Ah, che bello, bellissimo. Grazie signora, auguri per i suoi nipoti che avranno la fortuna di avere una brava nonna che gli insegna la bella letteratura. Il 20 settembre del 47 moriva Fiorello La Guardia. La Guardia è stato il sindaco italo-americano di New York che ha rivoluzionato la politica e il modo di comunicare. Ascoltiamo il suo uso in un discorso del 35. Il successo della democrazia dipende da come si tiene informato il popolo. Si deve sapere che cosa succede. E i governanti hanno il dovere di informare il popolo. Questo è quanto io voglio fare. Parlare sinceramente a tutti. Quando dovrò accarezzare una spalla, l'accarezzerò. Ma se dovrò colpirla, la colpirò. Il sindaco italo-americano Fiorello La Guardia, Marina Milone racconterà insieme a me la sua storia dopo il giornale radio. Ma prima di chiudere, una battuta. Ci scrive Diego, dice: non è che Marina è leader nel senso comunicativo, mediatico, superficiale. Parliamo della, naturalmente, della brasiliana, della leader brasiliana, come intendete voi, ipercapitalista. È potente perché combatte per la giustizia. Ma noi quello volevamo dire. Era e siccome che è figlia dire, di una mamma che aveva 8 figli, che aveva un solo uovo, poca farina, e doveva dar da mangiare a questi bambini. Dicevamo quello. Dicevamo quello.